ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. "24 mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 15 secondi inizia la terza parte di 24 mattino di questo venerdì 17 luglio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Ciao, ciao Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Rubrica Tutto il mondo e paese, prima pagina delle Figaro, ovviamente apertura sull'incontro che si terrà oggi a Bruxelles, i 27 che si riuniscono, e Le Figaro dice è un summit cruciale per il rilancio. Ma la cosa che ha attratto la mia attenzione, proprio per tutto il mondo e il paese, è la notizia, e Le Figaro provoca un po' su questo, del ritorno delle maschere obbligatorie. Scrive il quotidiano francese che, dopo aver sostenuto a marzo che le maschere erano inutili, adesso il governo francese ha deciso di renderle di nuovo obbligatorie nei luoghi pubblici chiusi. E quindi se entrerete o entrate in un negozio in Francia o in un ufficio postale, insomma in qualsiasi luogo pubblico chiuso, la maschera è tornata obbligatoria. Noi in Italia non l'abbiamo mai tolta ed è effettivamente forse abbiamo fatto anche bene. C'è poi un sondaggio che racconta come i francesi non abbiano apprezzato tantissimo il discorso di Macron del 14 luglio, e anche qui prima, quando non parlava, gli dicevano che non parlava, e adesso invece dicono che sta facendo troppo spesso ricorso agli interventi pubblici, come vedete tutto il mondo e il paese. Decisamente. Chiudo con una nota divertente. Fino a un certo punto. Allora, il Guardian dà grande enfasi alla notizia che una notissima, forse la più nota azienda produttrice di cioccolato in Gran Bretagna, per la prima volta nella sua storia riduce la barretta che è molto popolare tra gli inglesi. La riduce perché? Perché così avrà solo 200 calorie, in uno sforzo per ridimensionare quello che è un problema britannico, e non solo l'obesità, e anche l'obesità infantile. La riduzione della barretta. Il costo non si riduce. Vabbè, così è. Allora, cara Maria, oggi, lunedì, avremo sicuramente modo di parlare degli esiti del Consiglio europeo. Oggi, che è venerdì, ce la pigliamo un po' più morbida, se volete. Più avanti parleremo anche di università e di come cambia l'università, di come ripartirà l'università, perché tanto abbiamo parlato di scuola e l'università quasi non l'abbiamo toccata, lo faremo anche con il ministro. Ma in apertura ci vogliamo occupare di come sono cambiate le nostre vite lavorative in questo periodo, naturalmente per chi il lavoro ancora ce l'ha. Lo smart working, come cambia le vite di tutti noi, come cambia le città, a partire, se volete, anche da questa serie di provocazioni o di parole arrivate dal sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale dice non può essere la normalità. E questo impone, perché dice, questo imporrebbe un ridisegno delle città. E con una persona che anche di ridisegno delle città si occupa, ne parliamo questa mattina, Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab all'MIT di Boston e dello studio di progettazione Carlo Ratti Associati. Buongiorno Ratti e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. Buongiorno direttore. Senta, l'idea che ci siamo fatti è che si stiano creando, come sempre, no, due filoni. Chi, soprattutto le grandi aziende, ma non solo, vedono nel mantenimento dello smart working una modernizzazione dei nostri sistemi lavorativi, con gradimento anche molto spesso dei dipendenti, e chi si preoccupa di tutto l'indotto, voglio dire dai ristoranti ai bar, se i centri dove ci sono le aziende si spopolano e si chiudono tanti esercizi commerciali. Proprio questa mattina sul Daily Telegraph, in prima pagina, pagina leggo la notizia secondo la quale il consigliere massimo del governo sotto il profilo scientifico, cioè l'equivalente del loro capo del consiglio scientifico britannico, insiste sul fatto che l'home working deve continuare per una questione di sicurezza nei prossimi mesi. Lei che ne pensa? Ma io direi che intanto l'home working ha comunque degli aspetti molto positivi, sono quella flessibilità che abbiamo, di cui insomma che abbiamo tutti apprezzato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Però volevo condividere anche i primi risultati che noi stiamo raccogliendo proprio dal nostro ufficio americano, dal campus dell'MIT a Boston. E quello che stiamo notando è che comunque troppo home working sta indebolendo le nostre reti sociali, troppo home working sta diminuendo quelli che si chiamano in sociologia i legami deboli, sono dei legami molto importanti, sono quelle connessioni con persone che magari appunto incontriamo in ufficio, con cui di solito non faremmo una chiamata Skype o di Zoom, ma che magari incontriamo casualmente, prendiamo un caffè e che ci raccontano nuove idee, che ci aprono un mondo diverso un modo diverso di pensare, insomma. Quindi la cosa interessante è che io credo comunque che questa non sarà la fine dell'ufficio, l'ufficio fisico sarà sempre molto importante, ma ciononostante un po' di smart working, un po' di flessibilità in più delle nostre vite, per cui magari il lunedì e il martedì continuiamo a lavorare stando in campagna, in montagna, in un'altra città, per cui non dobbiamo andare esattamente, è un po' la fine di quel modello estremo di sincronizzazione. Il problema della vecchia città era il problema, chiamiamolo fantoziano, del fatto che tutti facessero la stessa cosa esattamente allo stesso momento. Con lo smart working ci dà più flessibilità, che vuol dire anche poi riuscire a usare meglio la città. Senta Ratti, proprio a proposito della città e di come ridefinire la città, questo è un tema. Se penso per esempio a Milano, una città che negli ultimi anni ha basato un pezzo importante del suo sviluppo e anche del suo sviluppo immobiliare esattamente sugli uffici, penso ai grandi grattacieli che noi siamo qua nella sede del Sole 24 Ore, sorgono veramente a poche centinaia di metri da qua e saranno le sedi per esempio di grandi aziende come PwC, lo sono attualmente già di Generali. Ebbene, questo impone un cambiamento, perché forse queste sedi mastodontiche non servono più e tutti i servizi correlati a queste sedi non serviranno più. Ma io direi che la sede, come dicevamo prima, servirà ancora, potrebbe cambiare significativamente. Noi con il nostro studio di progettazione siamo impegnati in queste settimane nella progettazione del primo quartier generale headquarter progettato, iniziato dopo il Covid. E qui ci sono diversi aspetti interessanti da considerare. Ci sono gli aspetti legati alla sanificazione dell'ufficio, ma soprattutto direi, se passiamo meno tempo in ufficio, come possiamo ripensare la vita lavorativa in modo da massimizzare proprio quell'occasione di incontro di cui dicevamo prima, quelle che ci permettono di creare legami deboli. E questo vuol dire chiaramente un nuovo modo di pensare l'architettura dello spazio per ufficio. Maria. Io sono molto affascinata da quella che sarà, se ci sarà, perché magari qui stiamo facendo delle proiezioni e poi invece nella realtà nulla cambia, però sono affascinata da come cambierà l'utilizzo della casa, perché abbiamo visto nei mesi di lockdown, vivendo in casa, che più si ha un po' di spazio per ciascuno dei componenti del nucleo familiare e meglio si vive. Allora, è vero che si sta già delineando una scelta in direzione di case più grandi, magari non in centro? Ho letto che a New York gli affitti sono già diminuiti nel centro di Manhattan dell'8%, essendo peraltro stellari. È vero che l'utilizzo della casa e la richiesta immobiliare sta già cambiando? Ma io direi che ci sono due aspetti. Da un lato, chiaramente, sì, qualche metro quadro in più, ma soprattutto un'organizzazione diversa delle nostre case diventa importante. Su questo è molto interessante anche quello che sta avvenendo in altri paesi, in cui ci sono diverse rivendicazioni, per cui i lavoratori dicono: benissimo, io lavoro da casa, ma allora tua azienda mi paghi tutto oppure una parte dell'affitto. Quindi in qualche modo ripensare un po' lo spazio domestico, che diventa anche uno spazio di lavoro, è fondamentale, un progetto che noi oggi stiamo facendo con uno dei più grandi sviluppatori cinesi che si chiama Wang Ke, proprio di pensare cosa sarebbe, come può rientrare a casa post-Covid. Nel secolo passato c'era questo, negli anni 20 del secolo passato era stato sviluppato il tema di existence minimum, quali sono i minimi esistenziali per l'appartamento. Ecco, questi chiaramente sono cambiati dopo il Covid, quindi progettare oggi, le cose da progettare oggi, tenere in conto per progettare un appartamento, una casa, sono chiaramente un po' diverse da quelle che potevano essere qualche anno fa. Covid ha fatto un po' l'accelerazione di trend che erano già in corso. L'altro punto però, quello invece, l'altro punto mi ricorda invece un po' il dibattito, ecco, quello sul andremo tutti a vivere nei borghi. E io questo non credo che sarà così, non credo che sarà così, perché le nostre città hanno vissuto tantissime pandemie. Pensiamo, nel 1300 Venezia con la peste perde il 60% della sua popolazione, e ciò nonostante nei secoli successivi abbiamo continuato ad affollare i suoi teatri, le sue bellissime calli, a pigiarci gli uni contro gli altri. Insomma, quindi le nostre città ne hanno viste molte. Però è vero Ratti che all'epoca non c'era la tecnologia per lavorare da casa, e adesso questa tecnologia c'è, e soprattutto, perché qualche ascoltatore dice sì, però non è che i trattori e le macchine possiamo costruire da casa. È vero anche che il 60, quasi il 70% dell'economia italiana è basata sui servizi, e quindi questo c'è, molti sono servizi, sì, però, avanzati, no? Verissimo, però pensiamo un'altra cosa. Insomma, io credo sì, sarà possibile, qualcuno potrà andare a lavorare a Rocca Canotta e, grazie a questa nuova flessibilità di cui parlavamo prima, andare soltanto magari una volta, due volte a settimana a Milano nel quartier generale, se no lavorare appunto da Rocca Canotta. Ma a parte questo, chi ha voglia di andare a vivere a Rocca Canotta? Insomma, se ci piacciono il teatro, se ci piace andare a mangiare il sushi, se ci piace quello che volete, insomma, proprio tutta la ricchezza della vita urbana, quella è a Milano, a Torino e nella grande città. Quindi quello è il potere magnetico della città, che non capisco perché dovrebbe venir meno solo perché sì, possiamo andare, ma perché? Buon punto, magari ci sono famiglie con bambini che pensano che sia più bello farli crescere in un ambiente più verde, più sicuro, dipenderà da molte esigenze. Ascolti, io volevo parlare anche di istruzione, che è un tema che mi sta molto a cuore e che poi affronteremo tra pochi minuti. Di recente lei ha detto che gli Atenei oggi sono ancora quelli fermi all'Università di Bologna dell'anno 1000 o al college stile Cambridge. Lei come l'immagina l'università post-coronavirus, tenuto conto del fatto che sono proprio gli studenti a chiedere l'insegnamento in presenza, gli studenti universitari e non solo, ma all'università lo chiedono con insistenza? Sì, io credo che effettivamente le università, ecco, io qui lo dico, io che ho passato una gran parte della mia vita in università, che sono in università adesso appunto, che insegno in università, e il modello universitario è effettivamente un modello molto tradizionale, che non è cambiato così tanto. Se noi immaginiamo come è cambiato grazie alle tecnologie digitali il mondo di trasmissione della conoscenza coi media negli ultimi due decenni, che è proprio stato completamente rivoluzionato dalle nuove tecnologie, e come è cambiata l'università, ecco, l'università è rimasta e cambiata molto poco, e ci poi sopra una serie di resistenze proprio che fanno parte del modello educativo. Penso che questi mesi siano proprio accelerando moltissimo anche la trasformazione universitaria, come diceva proprio partendo anche agli studenti. Gli studenti in America, tra l'altro, stanno chiedendo appunto di tornare a incontrarsi, di tornare nei campus, ma poi stanno dicendo, beh, insomma, se devo semplicemente ascoltare una lezione via Zoom, eccetera, non vi pago mica 50.000, 70.000 dollari all'anno come pagavo prima. Quindi questo sta mettendo proprio in crisi il modello tradizionale università. Io credo di nuovo, come diciamo prima per gli uffici, che lo spazio fisico sarà comunque sempre molto importante. Quindi questo di nuovo non vuol dire assolutamente un'università che diventa soltanto virtuale, però può voler dire rendere virtuali quegli aspetti ripetitivi, quella che si viene chiamata la frontal class, la lezione frontale, quello che quando uno si deve, magari il suo studente si deve alzare presto per andare a occupare un posto in aula. Io mi ricordo quando quando ero al Politecnico di Torino, insomma, per andare a prendere un posto in aula in un'aula di centinaia di persone, il professore veniva ogni anno a ripetere un po' le stesse slide e la stessa lezione. Ecco, questo è chiaramente virtualizzato, invece possiamo utilizzare il tempo che passiamo nello spazio fisico, gli uni accanto agli altri, per massimizzare le relazioni, appunto gli scambi tra studente e studente, molto importanti, e anche tra studente e professore. C'è un'esperienza molto molto bella di una nuova scuola in Francia, fondata da Xavier Niel, in cui lui cerca di proprio di fare una scuola in cui lo spazio fisico diventa lo strumento per creare un insegnamento peer-to-peer, quindi tra persone e persone, una scuola senza professori. Ecco, mettendo insieme l'insegnamento di École 42, di questa scuola francese, con i MOOCs, che sono i corsi online, quindi un campus fisico in cui si impara. Le do una buona notizia, probabilmente faremo qualcosa del genere anche in Italia, e grazie proprio alla LUIS. Vedremo, ne parliamo tra poco, tra l'altro. Allora, grazie Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab all'MIT di Boston e dello studio di progettazione Carlo Ratti Associati. Alla prossima, Ratti, grazie mille per la disponibilità. Buona giornata, ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo appunto con il rettore della LUIS Guido Carli di Roma e il ministro dell'Università e della Ricerca. Mattino. A questo punto, come si diceva, parliamo di università e di come ripartirà l'anno accademico, anche un po' di come si è concluso e di come dovrà forse ripensarsi l'università alla luce di Covid e di tutte le misure prese. Lo facciamo con Gaetano Manfredi, che è ministro dell'Università e della Ricerca. Manfredi, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E Andrea Principe, rettore dell'Università LUIS Guido Carli di Roma. Buongiorno Principe, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Maria, prego. Allora, parto da una buona notizia, nel senso che leggo che l'intervista a due voci che il ministro dell'istruzione tedesco e il ministro dell'istruzione francese hanno dato questa mattina alle Figaro, e nella quale dicono che l'educazione deve essere al cuore del progetto europeo e che una parte dei fondi dovranno proprio essere investiti nell'istruzione e nella scuola. Allora, questo è un bell'annuncio e una bella proposizione. Le chiedo, ministro Manfredi, lei di quanto dispone per avviare una modernizzazione dell'università italiana sotto il profilo anche dell'istruzione a distanza, ma ha tenuto conto di quello che abbiamo detto anche poco fa, il fatto che gli studenti hanno bisogno di una presenza fisica dei docenti. Quanti soldi avete per fare un cambiamento efficace, intanto sperando che poi arrivino quelli europei? Ad un momento noi abbiamo investito, abbiamo la disponibilità di 1.400.000.000 che sono stati messi in campo con il decreto rilancio, più risorse per l'edilizia universitaria, si è concluso da poco l'avviso per altri 400.000.000. E quindi insomma all'incirca 2 miliardi sono stati messi in campo in questi mesi per poter cominciare a dare una risposta a quelli che sono ovviamente i problemi dell'università e della ricerca, soprattutto per garantire un rilancio per i giovani e sostenere maggiormente il diritto allo studio. E immagino, Manfredi, anche per una questione di organizzazione delle strutture, di gestione degli spazi, no? Abbiamo fatto un investimento anche di risorse straordinarie per consentire proprio alle università di potersi attrezzare e coprire anche i costi di questa situazione emergenziale, che chiaramente determina quindi un aggravio e la necessità di investimenti. Quindi insomma abbiamo messo in campo delle risorse importanti, adesso ci auguriamo che anche dalle risorse europee, quando saranno disponibili, potremmo ricavare nuovi investimenti per dare un nuovo slancio al paese e dare nuove opportunità ai nostri ragazzi che vanno all'università. Vorrei fare una domanda a Principe, al rettore della LUIS. È vero che con le lezioni a distanza, e voi le avete attuate subito, le lezioni si sono fatte comunque, ma è anche vero, e ce lo confermava prima il nostro ospite Carlo Ratti, ma lo dicono anche da Sciences Po a Parigi, è vero che però gli studenti non sono disposti a pagare la stessa retta se anche il prossimo anno accademico fosse tutto online a distanza. Qual è la situazione della LUIS? Avete in programma di fare l'anno accademico a distanza, un po' misto, e ci sono delle problematiche legate alle rivendicazioni sulle rette? Rientriamo a settembre innanzitutto in sicurezza, quindi rispettando le disposizioni governative e ministeriali, e rientriamo soprattutto in presenza. Tant'è che prevediamo soprattutto per le lezioni delle matricole per i primi anni ben il 70% dei corsi in presenza, mentre il restante sarà ovviamente online. La presenza è ovviamente aumentata dalla nostra capacità di saper e poter utilizzare gli ambienti digitali, perché se è vero che i nostri studenti, tutti gli studenti sono nativi digitali, preferiscono anche un'interazione diretta in presenza nelle aule. L'università per definizione è presenza, è comunità, è relazioni non solo tra docenti e discenti, ma anche tra discenti, si impara anche nel cosiddetto peer-to-peer, e da questo punto di vista noi abbiamo fatto anche degli investimenti importanti sia sulle infrastrutture tecnologiche, sia per un migliore utilizzo degli spazi a disposizione nei nostri campus. Ministro Manfredi, quello che ci dice qualche ascoltatore, che ci scrive qualche ascoltatore, ha a che fare con gli stessi problemi che sono stati riscontrati nella scuola, ossia il tema delle lezioni a distanza, che inevitabilmente la LUIS, se non vado errato, Principe, mi confermi, rientrate con una presenza del 70% almeno per il momento, per il prossimo anno accademico, no? Sì, per le matricole il 70%, per il resto il 50%. Per il resto il 50%. Ci dà un po' la misura, tra l'altro una grande università privata, ci dà un po' la misura di quello che potrebbe essere. Quindi problemi di connessione, non connessione, funziona, non funziona. Il problema di una struttura di insegnamento tarata per la lezione in presenza e che invece poi si trova a fare una lezione a distanza, dove la differenza è chiara, cioè non può essere la stessa cosa. C'è una questione di questo tipo, Ministro? Ma sicuramente ne abbiamo un doppio problema: da un lato questo tema del digital divide, che è legato a dei problemi anche infrastrutturali del paese. Questa emergenza ci ha fatto capire che ne abbiamo bisogno di una connessione digitale che arrivi a tutti a larga banda, perché altrimenti non si riescono a godere di alcuni servizi che sono servizi fondamentali. Noi adesso siamo intervenuti con un fondo di 20 milioni che abbiamo distribuito all'università per poter fare attività di sostegno ai giovani, sia per quanto riguarda i device che per quanto riguarda la connessione. Poi c'è un tema più ampio, che è di tipo culturale. È chiaro che noi oggi abbiamo necessità di affrontare una modernizzazione della didattica, un'innovazione della didattica, che deve avvenire sia in presenza sia a distanza. E questa, è una partendo, Manfredi, mi scusi, da un'università che è in gran parte novecentesca come impostazione. Certo, è novecentesca, ma io dico che tutte le grandi crisi sono anche delle grandi opportunità. Quindi, senza perdere i valori fondanti dell'università, che ricordava il settore Principe, cioè l'università è comunità, interazione, contaminazione, contatto, è anche una frontiera di innovazione. Quindi noi dobbiamo cogliere questa occasione, le università lo stanno facendo, per innovare anche la didattica e costruire un po' la didattica del nuovo millennio, che sarà presenza essenzialmente, ma anche digitale, anche nuove sfide per l'apprendimento per dei giovani che sono nativi digitali e quindi sono abituati anche a modalità di interazione diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto noi quando eravamo all'università. Una pausa. Mattino. Vai Maria, prego. Sì, essendo io una inguaribile ottimista, ma proprio inguaribile, tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno in qualsiasi circostanza. E allora le volevo raccontare, ministro Manfredi, una cosa che forse lei già conosce, forse no. Nei mesi di lockdown, alcuni studenti di architettura a Milano hanno scoperto, grazie a un loro collega di studi, la passione e l'entusiasmo dei docenti della facoltà di architettura di Reggio Calabria. Ed è successo che questi studenti milanesi passassero ore in collegamento Zoom con i docenti della facoltà di architettura di Reggio Calabria, scoprendone la straordinaria passione e competenza. E quindi c'è stata una bella contaminazione che altrimenti non ci sarebbe stata. Le chiedo, sarebbe possibile, visto che probabilmente una parte della formazione universitaria rimarrà per il futuro anche online, sarebbe possibile una contaminazione maggiore tra facoltà? Perché magari ci sono straordinari giovani docenti nel sud che gli studenti del nord non scoprono perché non ci vanno nelle università del sud, e viceversa forse. Non so. Sì, ma questo è un esempio che conoscevo, che fa capire quali sono le potenzialità anche del digitale in termini di rete, di contaminazione, ma immagini anche quanto questo possa avvenire in una dimensione globale, cioè che studenti di un'università possono seguire anche la lezione di un grande docente o di un ricercatore che sta in un'altra parte del mondo. Io credo che questa sia veramente una grande sfida, e solamente noi dobbiamo essere capaci di utilizzare questi nuovi strumenti con sagacia, perché dobbiamo evitare che si atomizzi l'approccio alla conoscenza, perché altrimenti abbiamo tante monadi che vagano in questo mondo digitale, invece abbiamo bisogno di grandi comunità, che siano delle comunità in presenza ma che siano aperte a questa contaminazione che lei ha descritto. Questo credo che sia veramente una bella opportunità che può avvicinare mondi diversi, luoghi geografici diversi e anche saperi diversi. Rettore Principe, questo ci porta ad un altro fronte, anche il racconto che ha fatto Maria Latella ci porta ad un altro fronte. In realtà questa digitalizzazione di parte delle lezioni, che in parte era già avvenuta ma si sta accelerando, può essere un'ottima occasione per una serie di atenei. Il vostro chiaramente in una condizione particolare, è già in una situazione di eccellenza, quindi è già attrattivo di suo, però a livello generale può spostare l'equilibrio verso magari università più marginali dal punto di vista territoriale e spostarsi dalle grandi città. Che dice? Ma io su questo faccio eco a quello che diceva poco fa il ministro Manfredi, ovvero la digitalizzazione può aprire nuovi spazi e nuove opportunità alle università. Certo è che dobbiamo riflettere, diciamo così, su un rimodellamento, un ripensamento di due categorie fondamentali dell'educazione, così riguadagnando il valore del termine sia in latino che anglosassone, ovvero spazio e tempo. Noi possiamo, grazie al digitale, ampliare lo spazio dell'educazione anche attraverso accordi internazionali e rivedere anche i tempi della stessa formazione. Parliamo appunto sempre di formazione permanente, e anche attraverso accordi internazionali, cosa sulla quale noi siamo particolarmente attivi, possiamo ripensare anche i percorsi di formazione dei nostri studenti. Su questo versante qui, per tornare appunto alla sua domanda, ovviamente anche università magari ubicate in zone periferiche possono avere e sfruttare questa opportunità. A proposito di zone periferiche, ministro Manfredi, c'è un nostro ascoltatore che ci racconta una cosa abbastanza particolare, perché se lo prendiamo, non ho motivo di ritenere che non dica la verità, dice: io oggi avrei dovuto sostenere due esami di fisica ma non ho il collegamento internet a casa e la mia università a Bergamo non mi ha concesso una postazione. Non so se sia, come dire, se sia un ascoltatore da prendere sul serio, ma insomma ci sono studenti che non hanno delle postazioni internet a casa. Sicuramente ci possono essere questi problemi. Noi abbiamo cercato, deve considerare che noi abbiamo 1.600.000 studenti, quindi che ci possano essere dei casi. casi del genere, questo è possibile. Le università hanno molto lavorato, sono molto impegnate per evitare, diciamo, questi disagi, sia, ricordavo prima, adesso con dei bonus di sostegno agli studenti, sia cercando di aprire le università nei limiti del possibile. Bergamo è stato uno dei luoghi con più difficoltà dal punto di vista sanitario, quindi le misure di sicurezza sono particolarmente severe in quella città, e certamente, sicuramente questi disagi ci sono stati. Noi cercheremo di limitarli al massimo, di fare in modo che questi ragazzi che hanno avuto delle difficoltà possano recuperare. Purtroppo stiamo attraversando un periodo di eccezionale difficoltà, e come si ricordava prima, il fatto che, diciamo, il sistema universitario abbia continuato a svolgere la sua funzione, abbiamo avuto un numero di laureati addirittura superiore rispetto a quello dello scorso anno, un numero di esami sostenuti praticamente uguale, significa che complessivamente la risposta è stata molto positiva. Poi che ci possono essere stati dei problemi, o che ci possono essere dei problemi e nelle cose, noi cercheremo di dare una risposta a tutti per fare in modo che nessuno resti indietro. Sì. Senta, Ministro, c'è questa storia della concorrenza fiscale tra regioni, l'avrà vista, ho visto che non le è piaciuto un granché, ossia l'idea che hanno lanciato alcune regioni del sud di dire abbassiamo le tasse agli studenti che dal nord si iscrivono alle nostre università. E le aggiungo questo, io non ho avuto una risposta chiara sul tema delle rette, cioè se l'università è prevalentemente online, visto che siamo sul tema dei costi, le rette devono scendere oppure no? Allora, sul primo punto io l'ho anche pubblicamente detto che è un metodo, sono delle cose che a me non piacciono. L'università è un grande sistema nazionale che vive dell'autonomia delle università, ma in un sistema che garantisce, deve garantire pari diritti a tutti, e questa forma di dumping regionale da qualsiasi parte venga fatta, dal sud, dal nord, dal centro, va contro questo principio di uniformità nazionale che rappresenta un valore del nostro sistema. La circostanza che tutti i ragazzi italiani hanno avuto la possibilità di fare didattiche online dalla Sicilia alla Lombardia è stato un bellissimo segnale, perché non ci sono state differenze. Questo è un valore, sì, che noi dobbiamo difendere in tutti i modi. Sul tema delle rette, no, i ragazzi hanno avuto un servizio ovviamente limitato in questo periodo. Il nuovo anno si ritornerà in presenza, questo garantirà a tutti di poter godere anche della presenza nelle università. Quindi non credo che sia all'ordine del giorno il tema di un cambiamento delle rette. È chiaro che noi questo l'abbiamo fatto, ma in relazione a quella che è la crisi economica che purtroppo stiamo vivendo e vivremo, abbiamo fatto un forte intervento sul diritto allo studio, che oggi garantisce a più della metà degli studenti o di non pagare le tasse o di avere delle agevolazioni molto importanti. Questo sicuramente è il modo, dal mio punto il modo, di vista, il modo di agire, dice lei, di agire per aiutare chi ha bisogno, perché sì, dobbiamo aiutare chi ha bisogno. Dobbiamo chiudere, grazie al ministro Gaetano Manfredi, Andrea Principe, rettore della Luis Guido Carli di Roma. Buon fine settimana. Buon fine settimana ad entrambi, buon fine settimana a te, cara Maria, ci risentiamo lunedì alle 8:20. E a te, caro Simone, ciao a tutti. Ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.